Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima, a medesima ora. Buona giornata. Ah sì, ci hanno scritto che c'è qualche, davvero incontrato qualche difficoltà nel trovare i nostri testi sul sito di Radio Popolare, ma con un po' d'esercizio ci si arriva. Bisogna puntare la freccetta mi sembra chi siamo o qualcosa del genere, e fare apparire l'indice le trasmissioni. State ben attenti che non scappi via, perché scappa via velocissimo. Cliccare sulle trasmissioni, appare un menu da cui su cui si può cliccare La Caccia. Buon lavoro. Proprio se non riuscite a trovare i testi, c'è sempre la replica mercoledì notte, dopo l'ultima edizione del notiziario.